La cupola nera del Cesareo. 15 anni dopo, 11 dicembre 414. In quel lontano compleanno di Pazia di 15 anni fa, si spense in me la favilla della speranza. A noi due non era concesso l'amore umano. Nel corso di questi 3 lustri, la nostra unione spirituale e intellettuale ha raggiunto un'armonia di energia vitale, una comunione di forze, di luce, di aria. Non è stato semplice rassegnarmi a dominare le tempeste che inevitabilmente scoppiavano, vivendo uno accanto all'altra praticamente giorno e notte, tutti i giorni e tutte le notti. Erano tempeste di dolore che graffiavano terribilmente, ma senza scavare a fondo, sono sempre riuscito a tenere a bada i regni oscuri del sangue, mentre la mia impetuosità si è logorata nell'attesa. Dominare le nostre forze per mutarle, questo era e resta uno dei suoi grandi progetti. E portare il nostro sapere in mezzo alla gente è un altro punto basilare per la mia maestra. Finora i filosofi non hanno mai parlato alle masse e la sapienza è stata sempre appannaggio dei discepoli più stretti. Adesso basta, è giunto il momento di liberare donne e uomini dal buio, dal terrore, verso un mondo ignoto. Questo ripete fino all'ossessione Ipazia. E quel 19 marzo di 15 anni fa, quando il mio orecchio poggiato sul suo ventre era in attesa che la pace tornasse nel mio sangue, mentre con una mano mi accarezzava i capelli, Ipazia mi parlava. Shalim, la sensualità è una gabbia. Questa nostra piccola, unica, irripetibile vita è una gabbia. L'unica strada che abbiamo è rompere con queste prigioni, crescere, apprendere, amare, andare oltre i limiti, abbracciare la totalità. È l'undicesima ora. Ipazia ha appena finito di presenziare un convegno di medicina a cui hanno partecipato studiosi intervenuti da Antiochia, da Atene, da Costantinopoli e da Efeso. Del gruppo di Alessandria ha insistito per prendere parte anche Ierocle, giovane studioso di filosofia, figlio del magistrato di Costantinopoli Peonio, amico di Ipazia. Ierocle asseriva che occorre attendere che le malattie raggiungano il loro culmine naturale senza interventi brutali da parte del medico e che comunque la natura ha stabilito per ogni singola specie un determinato periodo di tempo e quindi ogni uomo o donna possono vivere al massimo fino al loro compimento. La mia maestra si è ritirata nel piccolo laboratorio accanto all'aula magna, dove sta finendo di mettere a punto un nuovo modello dell'apparecchio ottico per esplorare il fondo del mare, l'idoscopio. Molti anni fa ne aveva già realizzato uno, ma il sistema ottico era poco potente. Dopo tante prove, Nicandro e Ipazia sono riusciti finalmente a costruire lenti più efficaci e un tubo verticale in cui inserirle non più in ferro, bensì in vetro. Lo scorso anno ha costruito un tubo stagno con un peso all'estremità. Immerso in un liquido si può leggere il valore del suo peso specifico direttamente sulla parete graduata esterna al tubo. Lo ha chiamato aerometro. Nella mia stanza esterna al vestibolo io sto riordinando tutti i documenti che hanno lasciato i partecipanti al convegno quando sento bussare alla porta. Mi affaccio e vedo un curiale che mi annuncia il prefetto augustale Oreste. Esco sulla Via del Sole e saluto colui che negli ultimi tempi per me e Ipazia è divenuto un amico, invitandolo a entrare e rassicurandolo che i grandi impegni della giornata sono già conclusi. Raggiungiamo Ipazia nel laboratorio, ci sente entrare, lascia lo strumento, si gira, sorride al nuovo venuto. La mia maestra adesso ha 43 anni, eppure sembra ancora quella giovanissima creatura che venne a cercare fogli di papiro a casa mia. Profuma di pensieri sani, incontaminati, proprio come allora. Forse è mutata solo in un gesto, quel suo rialzare la testa in modo fiero. Ora non accade più ogni tanto, ha il capo sempre eretto, un portamento di tale nobile fierezza che, a guardarla, pare l'incarnazione della purezza incorruttibile. Oreste, amico mio, vuoi che ci sistemiamo in biblioteca o nell'aula magna? Oppure ci mettiamo nel triclinio e ci onori cenando con noi? E accenna un timido sorriso. Che abbiamo cucinato per i nostri amici Shalim? Oh, il solito antipasto, Ipazia, il solito gustatissimum. E e allargo le braccia per scusarmi, ma sono rimaste parecchie tartine di olive che in genere sono sempre bene apprezzate. Gli occhi miti del prefetto si dilatano inorriditi. Non so come sia possibile sfornare tante idee con questa alimentazione. Voi due siete vegetariani e lo sono quasi tutti gli studiosi che conosco, ma come fate a campare? E tende con un gesto di vera sorpresa il collo lungo ed esile. Ah, vi sarò grato se ci accomodiamo in biblioteca. Mi piace l'odore del papiro e accetterò volentieri un bicchiere di vino, di quello che vi mandava Sinesio, dalla sua terra. È il caso di brindare, porto una buona notizia. E schiude le braccia, occhi socchiusi da cui trapela una luce gioiosa. Ci hanno concesso qualche edificio per il nostro centro studi? Gli occhi della mia maestra vibrano di trepidazione. No, questo no, purtroppo, anche se ho fatto di tutto per ottenerlo. Dovevo insediarmi qui ad Alessandria da parecchi mesi, lo sapete, sono rimasto a Costantinopoli proprio per voi, e qualcosa di buono è arrivato. Il 30 novembre vi sono stati restituiti immunità, privilegi e anche qualche borsotto di soldi. Spero non soltanto a noi del centro studi. Oh, come sono felice, mi sembra un sogno. E Ipazia si appoggia emozionata ad un rilievo sulla parete in cui lottano dei e giganti. La legge parla di tutti gli insegnanti, grammatici, oratori, medici, filosofi, tutto il mondo della cultura, amici miei. Un mio piccolo contributo per il cammino della conoscenza. Anch'io sono rimasto bloccato per la sorpresa da questo messaggio di pace nella nostra vita sempre travagliata. A loro Oreste dobbiamo brindare davvero. Il vino è rimasto nonostante i nostri ospiti l'abbiano gradito molto. Corro felice verso la cucina mentre loro due entrano nella biblioteca direttamente dalla porticina del laboratorio. Quando torno con la brocca piena di vino e con tre bicchieri, Oreste si è seduto su uno scanno e sta passandosi una mano tra gli ispidi capelli corvini. Sul volto felice sono calate delle ombre. E vi lamentavate di Teofilo? Da quello che mi hanno raccontato era un uomo terribile, un vero comandante militare. Ma le sue intenzioni erano trasparenti. Tutto sommato per lui era importante il potere ecclesiastico, la supremazia della Chiesa, la cancellazione del paganesimo. E afferra il bicchiere che gli ho riempito portandolo alla bocca, una bocca grande, sproporzionata rispetto al piccolo capo. Il nipote è 100 volte peggio, è subdolo, viscido. Strilla poco, ma riesce a sobillare la folla con una facilità incredibile. Da quando sono arrivato non succedono altro che tafferugli, liti, controversie, saccheggi, omicidi, e dovreste sentirlo, Cirillo, dal pulpito della cattedrale patriarcale del Cesareo, come incita la gente a proseguire la lotta contro il male. E dalla sua voce accorata traspaiono segni di autentica preoccupazione. Questa legge non è una buona novella per lui. Sarà un duro colpo. E il pensiero che ho espresso ad alta voce mi provoca un indistinto turbamento che finisce per vanificare la mia felicità, mentre osservo il volto della mia maestra addolcito dalla notizia. Ipazia sembra non dar peso alle mie parole. Seduta accanto al prefetto, gli posa una mano su un braccio, accennando un sorriso buono. Oreste, abbiamo passato tempi peggiori, tempi in cui a fianco del vescovo c'era un prefetto come Evagrio. Per non parlare di funzionari anonimi e servili come Ipazio, Potamio, Gennadio, Remigio, Archelao, Paulassio, Pentadio e il praticamente assente tuo predecessore Eutalio, che non solo applicava alla lettera le direttive di Costantinopoli, ma si era apertamente schierato con il vescovo. Se solo tu avessi potuto vedere lo spiegamento di forze a giugno, quando Cirillo ha fatto trasferire le reliquie dei santi Ciro e Giovanni dalla loro chiesa al tempio di Iside Medica. Una miriade di soldati lungo un percorso di migliaia di stadi per rendere onore ai poveri martiri cristiani che non riuscivano più a operare guarigioni, mentre nel tempio sconsacrato di Iside Medica sembra che si sia ripreso a fare miracoli, forse perché l'aria di Canopo è più adatta. Ci vanno tutti, cristiani e pagani, e portano doni in oro e argento. I cristiani pregano San Ciro e San Giovanni con il pensiero rivolto anche alla vecchia guaritrice ellena Iside Medica, mentre gli elleni, anche se non c'è più la statua, pregano dentro di loro Iside Medica, ma con la coda dell'occhio rivolta alle statue di San Ciro e San Giovanni. Non si sa mai. L'esercito dei parabolani lavora tutto il giorno per trasferire nel palazzo vescovile le offerte della povera gente e scuote il capo, lo sguardo addolorato, le labbra piegate sotto il peso dell'amarezza. Ora almeno ci sei tu, Oreste, il primo prefetto intellettualmente onesto che non si presta alle mire di nessuno. Si passa le mani sul bel volto. Con le dita si massaggia le palpebre che lasciano intravedere qualche lieve segno di stanchezza. Ti siamo grati per quello che hai fatto. Mi rendo conto che non deve essere stato facile. Ma le mie parole devono aver incrinato la gioia che illuminava il volto del prefetto. Si versa un po' di vino, fa per invitarci a un brindisi, poi beve da solo, fissando i nostri due bicchieri vuoti. Sguardo improvvisamente incupito. Forse Shalim ha colto nel segno. Questa legge non farà che accelerare gli eventi. Sento che siamo giunti a una svolta decisiva. Questa non è gente stupida e non spreca energie così, tanto per fare qualcosa. Tanta istigazione alla violenza sta a significare che vogliono giungere a una conclusione definitiva. E beve un altro sorso di vino. Il sacco di Roma di 4 anni fa ha mostrato a tutti i popoli che ormai l'impero. Questi due tronconi d'impero non sono più invincibili, bensì alla portata di qualunque modesto esercito. E non poteva che accadere questo, dal momento che Teodosio ha affidato lo scettro ai suoi due stupidi fanciulli, assolutamente incapaci, sia in campo militare che politico. E scuote il capo, in segno di disapprovazione. Purtroppo la situazione è questa. A Costantinopoli Teodosio II ha 13 anni e la sorella Pulcheria 14. E l'impero d'Oriente è affidato al console reggente Antemio, che pensa solo a fortificare la città con mura e torri. Stessa identica preoccupazione di quel deficiente di Onorio, il quale anche lui non fa che rafforzare le mura di Roma. Un impero in declino che sta letteralmente crollando. In mezzo a questi crolli la Chiesa che lotta per affermarsi e sostituirsi all'impero romano. A disposizione a uomini geniali, determinati e senza scrupoli, uomini che hanno avuto come guida Ambrogio. A Roma ora c'è Papa Innocenzo I, a Ippone Cartagine, Agostino. A Costantinopoli Antiochia resta tutto quello che ha seminato Giovanni Crisostomo e qui ad Alessandria, prima Teofilo e adesso Cirillo. Mi spaventa, ve l'assicuro. Quando è morto lo zio, il Comes Abundantius aveva ricevuto le consegne di fare eleggere come successore Timoteo. Io ho presenziato la riunione a Costantinopoli. Il capo delle forze militari d'Egitto ricevette da Antemio l'ordine di appoggiare la candidatura di Timoteo. Cirillo non doveva assolutamente essere eletto, avrebbe creato disordini, sarebbe diventato troppo potente. E invece quel diavolo, approfittando dell'assenza del prefetto Eutalio, manovrò le cose con tanta fretta da riuscire ad essere eletto in soli 3 giorni. La canonizzazione avviene sempre di domenica. Cirillo la consacrò di giovedì. È un diavolo, è potentissimo, può contare su decine di migliaia di monaci parabolani. Questa è la principale considerazione da fare. Rispetto agli ometti politici che stanno facendo affondare l'impero, uomini come Agostino e Cirillo sono veri colossi, dei giganti. Chi oserà contrapporsi a gente come questa? E allunga a dismisura l'esile collo scrollando il capo. E lo chiedi a me, amico mio, tu che sei cristiano? Gli risponde la mia maestra con voce accorata. Ormai mi sono abituata ad assistere impotente alle persecuzioni della Chiesa nei nostri confronti avvenute in questi ultimi anni. Quanti altri editi hanno emanato Arcadio e Onorio? E quanti monaci, preti e vescovi hanno accompagnato i goti di Alarico, preventivamente battezzati, ovvio, a saccheggiare e bruciare Dione, Delfi, Megara, Corinto, Argo, Nemea, Sparta, Olimpia e 100 città ancora. Hanno bruciato il santuario di Eleusi, bruciati vivi tutti i nostri sacerdoti, ma non basta. I concili di Cartagine che proibiscono a tutti, vescovi cristiani compresi, di studiare e leggere i trattati di tutti i grandi filosofi e filosofe del nostro passato che hanno costruito il sapere universale. E poi la folla di Cartagine che ha distrutto i templi e linciato i pagani, e poi quelli di Gaza, e poi Giovanni Crisostomo, che invia i suoi monaci a distruggere templi e dei, anche quello della dea Artemide di Efeso, e il nostro Agostino, che permette il massacro di centinaia di elleni a Calama, e altri templi incendiati, altre biblioteche e montagne di testi di scienza e filosofia bruciati. 1.000 anni di storia, di tradizioni, di fede religiosa cancellati. Scrolla la chioma ribelle, un'espressione di sconforto sul volto. Ipazia, non avrei potuto occupare la carica di prefetto se non mi fossi sbrigato a battezzarmi. Per il resto, sono cristiano un po' come Shalim, mi piace la figura del Cristo filosofo rivoluzionario, ma non accetto le favole dell'incarnazione o della resurrezione. Ipazia, interrompendo il prefetto, protende una mano. Oh, non te la prendere per quello che ho detto. Mi fai pensare al nostro amico di Cirene. Forse abbiamo criticato un po' troppo duramente Sinesio quando ha accettato di diventare vescovo di Tolemaide. Eppure la pensava come noi. Scrisse e affermò pubblicamente che non avrebbe dissimulato le sue convinzioni e che non ci sarebbe stato dissidio tra la sua lingua e il suo pensiero. Se Teofilo non gli avesse concesso di vivere e filosofare a suo modo, avrebbe potuto tranquillamente radiarlo dal rango sacerdotale. Aveva una moglie e non intendeva assolutamente essere separato da lei, né conviverci di nascosto come un adultero. Ipazia si gira, cerca in una nicchia, ne estrae un rotolo, torna a fissare il prefetto. Questo brano di lettera lo conservo come esempio e spesso lo leggiamo agli allievi più giovani. È difficile, se non del tutto impossibile, scrollarsi di dosso convinzioni che siano state dimostrate scientificamente, scrive. E d'altra parte la filosofia spesso ripugna ad omettere credenze comunemente vulgate. Orbene, non mi indurrò mai a persuadermi che l'anima abbia origine posteriore al corpo. Non ammetterò mai che il cosmo e le sue parti siano destinate a insieme perire. Quanto alla risurrezione della quale tanto si parla, la ritengo tutt'al più qualcosa di misterioso e ineffabile, e son ben lungi dal confrontarmi a riguardo alle opinioni del volgo. E resta con lo sguardo fisso sul foglio, annuendo significativamente. È proprio questo il punto, amica mia. E Oreste atteggia la bocca a un gesto di perplessità. Il vescovo di Tolemaide, Sinesio, era pur sempre una creatura di Teofilo, a cui faceva comodo che un uomo colto e ricco avesse il governo di quella provincia, non solo. L'aveva strappato a te, alla tua influenza. Era riuscito a far passare dalla sua parte uno dei migliori allievi di Ipazia di Alessandria, il filosofo Sinesio di Cirene. Ma si rivelò una magra vittoria perché Sinesio era stato forgiato da te a non farsi mai dominare la mente, a combattere per le proprie idee, a mettere sempre al primo posto come guida della sua vita la ragione, la potenza della ragione, capito, Ipazia? E le strappa il rotolo di mano, lo svolge, è lui a mostrarlo con enfasi alla mia maestra. Ed è stato Sinesio a vincere. Ha accettato e sostenuto il ruolo di vescovo come un politico influente e stimato dalla sua popolazione, infischiandosene di non riuscire a convertire i pochi elleni rimasti in provincia. Proprio al convegno di oggi è intervenuto un suo amico che, avendo incontrato la vedova la scorsa settimana, mi ha consegnato questa lettera che Sinesio mi aveva indirizzato prima di morire e di cui mi vergogno a parlarti. Ipazia afferra un altro rotolo nella nicchia dietro di lei, lo apre, scorre lo scritto e poi legge: «Tu hai sempre il tuo prestigio e mi auguro tu possa servirtene nel modo migliore», c'è scritto. «Ti raccomando, Niceo e Filolao, ottimi giovani parenti tra loro, perché rientrino in possesso dei loro beni. Vorrei che ottenessero l'appoggio di quanti privati o magistrati onorano la tua persona». E Ipazia solleva gli occhi con una timida espressione sul volto. «Scusami, Oreste, con tutto quello che hai da fare ci mancano solo queste inezie, ma conoscevo Sinesio, so che Niceo e Filolao furono vittime di un inganno». «Oh, ma non devi preoccuparti. Si tratta pur sempre di far trionfare la giustizia. Parlerò con i magistrati che stanno seguendo questa causa e mi permetterò di citare proprio Sinesio, stai tranquilla. e alza le mani nel gesto di voler stornare la sua preoccupazione. Ma per tornare al mio discorso iniziale, ti sei soffermata sulle parole di Sinesio? Tu hai sempre il tuo prestigio? Tu, Ipazia, sei influente, capito, amica mia? Ti chiamano ad Atene, a Costantinopoli, ad Antiochia, a Efeso, a Roma per ascoltare il tuo parere. Ti cercano i filosofi, i politici, i giudici, gli amministratori delle città, i capi delle corporazioni. Se c'è da fare un riassetto urbanistico, interpellano Ipazia di Alessandria, non Cirillo. Pur non ricoprendo una carica istituzionale, sei riuscita in tutti questi anni a conquistarti un tale credito, una tale fiducia, da far pesare la tua autorità politica. Questo è accaduto, Ipazia. Ti ascoltano e ti onorano magistrati, filosofi, politici e aristocratici, ma anche il popolo. Hai tolto potere a Teofilo e lo stai togliendo a Cirillo. Il prefetto annuisce in modo grave. Ho sempre saputo quello che facevo, amico mio, risponde con tono serissimo la mia maestra. Non c'era altra strada. Combattere questi giganti per salvare il genere umano. Anch'essi dicono di lottare per lo stesso scopo. La storia un giorno dirà come si sono svolti i fatti e giudicherà anche te, Oreste, e schiude il volto a un sorriso impalpabile, lieve. Il prefetto augustale cristiano che provava rispetto e amicizia nei riguardi di una maga, empia e pagana. Ma Oreste segue il suo pensiero, occhi tristi. Eudossia, che era imperatrice, è riuscita solo in parte a vincere contro Giovanni Crisostomo mandandolo in esilio. Ma lui ha continuato imperterrito ad attaccare la donna perché porta il marchio di Eva. La donna, dice, è per natura vana, disobbediente, maliziosa, utile solo per la procreazione e il governo della casa, ma pericolosa per chiunque voglia progredire moralmente. La donna, dice Giovanni Crisostomo, questa creatura privata da Dio del diritto ad aspirare a una funzione di guida spirituale, è comunque sempre pronta a insinuarsi ai vertici dell'autorità. Beh, questo perché Giovanni era un grande oratore. Agostino, molto più semplicemente, definisce la donna con un solo nome, immondizia. E la mia maestra scuote il capo con una tristezza infinita sul volto. Eudossia se lo poteva permettere, era imperatrice, comandava un esercito. E Oreste si passa una mano tra i capelli ispidi, mentre tu, Ipazia, hai per amico solo il prefetto augustale, che cerca di far da tramite tra la corte di Costantinopoli e il patriarca Cirillo. Ma a Costantinopoli non c'è più Eudossia. Lei ti stimava, non avrebbe mai permesso che Teofilo ti facesse del male. Ma adesso c'è Cirillo. E il suo potere sta crescendo vertiginosamente. Ha fatto tornare dai conventi della Nitria un vero esercito di monaci parabolani. Fra di loro c'è di tutto: facchini, marinai, sicari, assassini. Sono oltre 500. Fanno quello che lui comanda. E per legge non dovrebbero soggiornare in città, ma chi ha il coraggio di cacciarli? Ve lo ricordate quello che avvenne 15 anni fa? Quando Teofilo nella lettera pasquale tuonò contro i blasfemi che osavano rappresentare Dio con sembianze umane, asserendo che non bisognava prendere alla lettera il fatto che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Vennero qui ad Alessandria per ammazzarlo e l'avrebbero fatto se il vescovo non si fosse sbrigato a rimettere la barba al povero Padre Eterno e rassicurarli dicendo loro: Oh, io vi vedo come il volto di Dio. Hai capito chi sono quelle belve? Chi non vuole più pagare le tasse o vuole evitare la prigione diventa monaco parabolano. E io non posso toccarli, perché sono fuori dalla mia giurisdizione. Sono membri della Chiesa. Ma questo è solo il personalissimo esercito privato di Cirillo. Da lui dipendono economicamente decine e decine di conventi, decine di migliaia di monaci. Lui può muovere il popolo dell'intero Egitto. Questa è una guerra per il potere economico, offerte, donazioni, eredità, oro, santi guaritori. Cirillo controlla il commercio, l'artigianato. E Alessandria è la principale fonte di approvvigionamento di Costantinopoli. Teofilo e Cirillo corrompono a suon di monete d'oro i funzionari di Costantinopoli. Lo capisci? Io sono riuscito a far promulgare questa piccola legge in vostro favore solo perché ho fatto riflettere Antemio sul pericolo rappresentato da Cirillo. Antemio sa che se vengono comprati i prefetti con tutto l'oro che possiede la Chiesa, Cirillo e uno di questi prefetti possono assoldare un esercito di goti. E addio Egitto! E fissa Ipazia con una tale gravità in volto che la mia maestra cerca di diluire con un sorriso la cupa atmosfera che si è venuta a creare. Ma Oreste ci tiene a concludere il discorso accompagnandolo con la penetrante acutezza del suo sguardo. A questo progetto di conquista si sta opponendo solo un gruppetto di sognatori, gli studiosi di Alessandria in Via del Sole, e soprattutto tu, amica mia, ormai uno degli esponenti più prestigiosi della vita politica di questa città. Ipazia, ti prego, te lo chiedo in nome della nostra amicizia, non insegnare più per strada, in mezzo alla gente. Pensa ai tuoi studi e alle tue ricerche, ma fallo qui, in Via del Sole. Fate tutti i convegni che volete, ma andate ogni tanto anche ad Antiochia, a Efeso, ad Atene e anche a Costantinopoli. Allenta un po' la pressione qui ad Alessandria. Questa non è una disputa ideologica. Shalim ti aveva offerto del vino, dice Ipazia, e raccoglie il rotolo che il prefetto aveva lasciato sul tavolo. La carezza, solleva lo sguardo su Oreste che sta aspettando la sua risposta. Ti sono riconoscente per la considerazione e l'amicizia che nutri per me e per il mio centro, e per esserti adoperato per questa legge che porta un po' di ossigeno alla nostra condizione veramente precaria. Ma di smettere di parlare alla gente per le piazze e agli angoli delle strade non se ne parla. Al contrario, è proprio tutto quello che mi hai rivelato che mi spinge a continuare. Cirillo predica in chiesa per affidare la guarigione d'un malato a una statua in cambio di offerte d'oro. Io predico per strada perché la gente non porti oro in chiesa, ma i figli a studiare. Oreste s'alza in piedi, pare ricordare qualcosa. Afferra il bicchiere, lo trangugia tutto, poi si inchina davanti a Ipazia, quindi stringe le mie spalle con le sue piccole mani nervose. Almeno tu, Shalim, non lasciarla mai sola. E mi precede mentre l'accompagno lungo il corridoio verso il giardino e l'atrio. Da Via del Sole, tra i pini, nello spiazzo davanti al centro studi, cominciano a svanire le scialbe striature del tramonto. Le vecchie terme abbandonate non esistono più, sono rimaste solo macerie. La notte è limpida e stellata, ma almeno è senza luna. Leghiamo i cavalli a un arbusto e ci incamminiamo trepidanti verso la colonna di Pompeo. Anche Cirillo ha stabilito il proprio quartier generale con il suo esercito di monaci parabolani proprio attorno alla chiesa di San Giovanni Battista, costruita sulle rovine del Serapeo. Raggiungiamo in breve tempo la piccola costruzione attaccata all'impianto di ispezione della rete fognaria. Il cielo è troppo stellato, è come se fosse luminoso. Troviamo la lastra di marmo, la rimuoviamo e questa volta riusciamo a spostare la porta di ferro con meno difficoltà, ma un pezzo cede, si rompe. La grata s'apre ugualmente, ci introduciamo senza nemmeno accostare alle nostre spalle quello che resta della porta. Avanziamo di qualche passo al buio e solo allora accendo la lucerna. Gli occhi di pazzi erano in attesa della fiammella per sorridermi. Quanti anni, in quanti ruderi abbiamo rovistato Shalim, pur sapendo che una volta bruciata la biblioteca qui sopra e la nave di Zosimo, qualche testo interessante poteva trovarsi solo in questi sotterranei. E mi chiede la lucerna, cominciando a incamminarsi e a guardare nelle nicchie piene di rotoli. La seguo. Tiro fuori dal borsotto che porto a tracolla un lume, l'accendo e prendo anch'io a ispezionare le nicchie. Ogni tanto ci fermiamo, analizziamo assieme se è opera degna di essere portata via nel sacco di juta. Continuiamo e in una nicchia totalmente sommersa dalla polvere troviamo le copie di tutti e 18 i rotoli delle opinioni dei fisici di Teofrasto. Abbiamo solo due sacchi, ma lei è irremovibile, non vuole rinunciarci. Lascia decidere a me solo quando non è emozionata, come nel caso di testi di retorica. Ma già quando si tratta di musica, di introduzione all'armonica, della divisione del canone, devo lottare per dissuaderla. Riusciamo a scovare copie di trattati di Parmenide, Zenone, Eraclito, Anassagora, Ippocrate, Protagora. E poi alcuni commenti ad opere di Aristarco, Euclide, Archimede, Eratostene. E anche testi di tecnici come Tesibio e il suo scolaro Filone, persino un piccolo trattato sui divertimenti di Democrito. Siamo stanchi, impolverati, l'aria è pesante, mi metto a leggere. E Pazzi è stupita, uno scritto ameno del padre dell'atomismo. Sorride di cuore nel sentire che per non far chiacchierare né bere molto una donna anziana occorre mettere nel bicchiere aghi prelevati da un pino. Ride a crepapelle quando leggo che per potersi accoppiare molto volte occorre bere 50 strobili tritati assieme a 2 ciati di mosto e a 20 grammi di pepe. E poi ride felice quando sussurro il metodo, come procurare l'erezione a comando, cospargiti l'organo con pepe tritato nel miele. E quasi si sente male per il troppo ridere quando io racconto che il buon Epicrate, fino all'ultimo giorno prima di partire, nell'atrio dove cucinava aveva dei vasi stracolmi di miele, pepe e strobili. Vederla finalmente rilassata, percepire nelle sue risate sospiri echeggianti di fresco languore e il calore tenero di una fanciulla, mi ripaga di tutto. Eppure nello stesso foglio c'è un altro pensiero di Democrito e non posso fare a meno di leggerlo ad alta voce. Il cosmo è un palcoscenico e la vita è un passaggio sulla scena di questo palco. Entri, guardi ed esci. I Pazzi arriccia le labbra con quel gesto che precede un pensiero particolarmente significativo. Con tutto il rispetto che nutro per Democrito, che considero il mio principale maestro, io metto in discussione questa sequenza entri e guardi, ma bisogna vedere come guardi quando hai l'occasione di entrare nel palcoscenico della vita. Come? Proviamo a ben guardare. Potremmo trovare il modo di una trasformazione ora, qui, in questa esistenza, e non doverne uscire. E mi fissa seriamente con una tale fermezza che lascia intendere che in lei non esiste traccia di dubbio. Io, molto più modestamente, penso di essere fortunato perché ho potuto conoscere la vita, tutto qui, Pazia. Perché poteva accadere che io non nascessi e questo sì che sarebbe stato orribile, il non aver mai conosciuto la vita. Ripongo nel sacco i rotoli con i frammenti dei pensieri di Democrito e adesso muoviamoci, torniamo indietro. Torneremo presto. Ho appena finito di legare i 2 sacchi e li ho messi sul mio cavallo, quando, non molto distante da noi, scorgo delle ombre, figure umane che si avvicinano. Salto sul cavallo, i Pazzi già sta in groppa al suo, lanciamo le bestie al galoppo e ci allontaniamo senza correre verso il canale. Prendiamo per via di Nocrate, attraversiamo via del Soma, ma mi sembra di sentire il galoppo di altri cavalli dietro di noi. Corriamo, raggiungiamo la casa di Valeria in via Zenone, molto vicina a quella dei suoi genitori. È una stradina piccola, buia. Ci togliamo dalla via. Ci nascondiamo con gli animali sul retro. Regna un silenzio assoluto, ma non mi fido. Consiglio ai Pazzi di chiedere ospitalità ai nostri amici per qualche ora. Sveglio Nicandro, leghiamo i cavalli, prendo i 2 sacchi. Ci fa entrare, ci abbraccia. E poco dopo arriva anche Valeria, capelli sciolti sulla nuca e sguardo sorpreso. Invece di metterci a dormire, prendiamo a esaminare alla luce dei trilumi tutto quello che abbiamo prelevato dai sotterranei. Ma presto arriva il figlio piccolo, Fulvio, un vivace fanciullo di 10 anni che non vuol saperne di tornare a letto. E così si piazza sulle ginocchia della mia maestra e anche lui si mette a leggere il rotolo. A un certo punto richiama l'attenzione di tutti noi, occhi dilatati dalla sorpresa. Papà, mamma, questa è la roba che studiate nel vostro centro? Nicando deve lottare per strappare dalle mani del figlio il rotolo con la descrizione dei divertimenti di Democrito che legge a voce alta. Scoppiamo tutti a ridere e a nulla serve che io mi raccomandi di non gridare. Il faccino rosso e sorpreso di Fulvio ingigantisce la forza ilare della scena e veniamo tutti risucchiati e travolti in un vortice inarrestabile di gioia. Ma presto Il sorriso di Pazia si spegne. Tiene Fulvio abbracciato, la guancia sui capelli neri del bambino, con un gesto di affetto materno che muta la natura delle nostre lacrime. È un abbraccio senza speranza. Accarezza il volto della creatura che si gira verso di lei, felice di tanto affetto. Ipazia gli bacia gli occhi, è commossa. La sentiamo farfugliare. La conquista della luce e dell'universo intero non vale questa goccia d'acqua. E scuote il capo. E gli accarezza con mano materna la fronte, i capelli. Fulvio vale di più. È questa la verità impressa nel nostro sangue.